Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente anche siamo sul web con una app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it e che vi permetterà di ascoltare la vostra radiolina preferita in tutto il mondo. E a proposito di radiolina preferita, prima di iniziare vi ricordo che siamo nel pieno della campagna abbonamenti e per cui vi invito caldamente ad abbonarvi per mantenere la vostra radio preferita viva e vegeta. Così che ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 potrete ascoltare Città Fujiko Live Club, una trasmissione che si preoccupa di farvi ascoltare musica dal vivo di tutti i generi e di tutte le epoche. E anche oggi, come sempre, Città Fujiko Live Club inizia con una novità sempre in senso relativo. Come sapete oramai le ristampe, la pubblicazione di vecchi concerti è all'ordine del giorno e oggi è appunto una di quelle occasioni. Infatti abbiamo un doppio dischetto che racchiude un concerto che è stato registrato il 29 agosto del 1977. Lascio a voi fare il calcolo, tantissimi anni fa, ed è stato però pubblicato nel settembre scorso, dopo anni di oblio, diciamo così, del nastro negli archivi della casa discografica. Titolare di questo album è una band che ha avuto un successo mondiale strepitoso, ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, che ha veramente non ha bisogno di presentazioni. Si chiamano Fleetwood Mac. Ricorderò solamente che i Fleetwood Mac hanno due facce. Infatti fondamentalmente, diciamo, la base della band viene da Londra, è stata fondata nel 1967 da un grande chitarrista che rispondeva al nome di Peter Green ed era una delle punte di diamante del British Blues di quegli anni, con canzoni in classifica, con concerti straesauriti, con grande rispetto della critica, da parte della critica per meglio dire, e sono stati veramente dei grandi. Ma subito, fin dalle prime battute, ci sono stati dei grandi cambiamenti sempre all'interno della formazione. Addirittura a un certo punto, nei primi anni 70, la formazione comprendeva tre chitarristi ed è la formazione che personalmente preferisco. Comunque, alla fine di tre chitarristi nel dicembre del 1974 non era rimasto uno, se ne erano tutti andati. E quindi i due rimanenti, che sono i membri della sezione ritmica, Mick Fleetwood e John McVie, pensavano bene di dare uno sguardo al mercato, diciamo fra virgolette, americano, per trovare un nuovo chitarrista, e lo individuarono in un chitarrista che si chiama Lindsey Buckingham, chitarrista cantante, che però all'epoca era molto fidanzato con una cantante che si chiama Stevie Nicks, per cui Lindsey Buckingham, a cui fu chiesto di entrare nei Fleetwood Mac, disse: ok, io vengo, però se viene anche lei. E quindi fecero un album che si chiama semplicemente Fleetwood Mac, molto cambiato rispetto alla musica originale. Non era più blues, era pop rock fatto con grande professionalità, ma niente di particolarmente trascendentale. Il grande successo però è arrivato con un album che si chiama Rumours. Allora c'erano praticamente tre coppie all'interno della band, avevamo John McVie, Christine Perfect, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks e anche Fleetwood era sposato con la sorella di Patti Boyd, che sarebbe poi l'ex moglie di George Harrison e ex moglie anche di Eric Clapton. Questo è un altro discorso. Ebbene, queste tre coppie erano tutte e tre sull'orlo dello scioglimento e ci furono degli attriti, insomma fu un gran casino a dire il vero, e da questi casini però saltò fuori un album che si chiama Rumours, chiacchiere, che appunto parlava di questi problemi ed ebbe un successo veramente strepitoso. La band non si è ancora ufficialmente sciolta, cioè si è sciolta e riformata diverse volte, ma mai sciolta definitivamente, anche se nel novembre scorso la morte di Christine McVie ha dato un brutto colpo al futuro della band. Detto questo, andiamo ad ascoltarci questo album che si chiama Rumours Live. Lo ripeto, è stato registrato il 29 agosto del 1977 al Forum di Inglewood, uno delle grandi agglomerati urbani che formano quel mega agglomerato urbano che si chiama Los Angeles. Ci andiamo ad ascoltare un brano scritto da Stevie Nicks che parla di una principessa celtica che si chiama Rhiannon. Yeah. non era solamente una principessa celtica, ma come ha detto Stevie Nicks era anche una strega. Rhiannon, il brano che ci siamo ascoltati, uscito appunto dalla penna di Stevie Nicks, cantante, solamente cantante, mentre gli altri autori della band, Lindsey Buckingham era il chitarrista e Christy McVie era la tastierista, e ebbero un successo, ripeto, strepitoso questi Fleetwood Mac americani, e tuttora continuano ad averlo, a dire il vero. Come dicevo, l'album si chiama semplicemente Rumors Live, è stato registrato all'Inglewood Forum di Los Angeles, una mega mega struttura, adesso non più tanto mega, ce ne sono diverse che arrivano a un po' più delle 17.500 persone che può contenere il forum. Si trova nella grande Los Angeles, a circa 3 miglia dall'aeroporto, un piccolo dato di cronaca. È stato aperto il 30 dicembre del 1967. E chi di voi è amante degli sport americani sa che per lungo tempo è stata la casa sia dei Los Angeles Lakers, squadra di basket, sia dei Los Angeles Kings, che è una squadra di hockey, e poi le due squadre hanno traslocato in un locale più moderno, ma a Inglewood Forum rimangono sempre il sito per concerti di ogni genere. Capirete da queste mie parole che la prima parte della trasmissione di oggi è dedicata a questo locale, a questo stadio coperto, a questa struttura che appunto si chiama Inglewood Forum o Big Forum a seconda delle cose che leggete. E naturalmente, per dovere di ospitalità, cominciamo da un paio di band britanniche. Capirete che, essendo un locale da 18.000 persone più o meno, 17.500-18.000, le bands, gli artisti che vi suonano sono tutti strafamosi, per cui questa sarà una carrellata di personaggi e bands veramente stratosferiche, a cominciare dalla prima. Si chiamano Cream, dicevo, comincerò da un paio di band inglesi, e appunto i Cream hanno rappresentato, per meglio dire, dal 1966 al 68 la crema appunto del rock blues inglese. Hanno fatto cose strepitose, anche se adesso sono un po' caduti nel dimenticatoio. Comunque è uscito qualche anno fa uno splendido cofanetto di 4 CD che si chiama Goodbye Tour Live, che rappresenta alcuni degli show finali della band, 3 americani e quello finalissimo, l'ultimo proprio, che si è svolto alla Royal Albert Hall di Londra. E sono 4 concerti, dicevo, uno dei quali è stato registrato al Forum il 19 ottobre del 1968. Ce li andiamo ad ascoltare, grandissimi Cream, che sono stati uno dei miei grandi grandi grandi amori musicali in gioventù. Questo pezzo si chiama Sunshine of Your Love. Bye. been waiting so long. I've been waiting. Credo che non abbia bisogno di presentare questi Led Zeppelin, che sono una delle band in assoluto più riconoscibili al mondo grazie alla voce di Robert Plant e gli strumenti degli altri tre, che non sono assolutamente da meno. E è un triplo album questo, bellissimo anche questo, che già dal titolo è tutto un programma. Si chiama How the West Was Won, nel senso che quando il West americano fu vinto. Infatti triplo album, che è stato registrato in California, una parte è alla Long Beach Arena e l'altra invece quella che interessa a noi quest'oggi, al Los Angeles Forum. È la registrazione del 1973, l'album è uscito 30 anni dopo, nel 2003. Il brano che ci siamo ascoltati, ma credo, lo ripeto, che non abbia bisogno di presentazioni, si chiama The Ocean. Vi ricordo questo ottimo triplo album, si chiama How the West Was Won. Let me tell you about a place, summer afternoon. Altra grande e unica voce, direi, quella di Rod Stewart, l'avete riconosciuta sicuramente tutti. In questo medley, un brano di Sam Cooke che si chiama Twisting the Night Away, che alcuni di voi ricorderanno come, come sigla, credo, una cosa del genere, del programma di Fabio Fazio, unito in medley a Every Picture Tells a Story, un classico della produzione di Rod Stewart, anche se in realtà sono solamente pochissime battute. Il tutto tratto da una raccolta. Oggi andiamo alla grande. Prima abbiamo avuto il quadruplo dei Cream, poi il triplo delle Zeppelin. Oggi, adesso, un quadruplo, una quadruplo antologia di Rod Stewart, si chiama Live 1976-1998. Tonight's the Night, e naturalmente è stato registrato in diverse epoche, in diverse occasioni. Questo brano, Twisting the Night Away / Every Picture Tells a Story, è stato registrato naturalmente al Forum di Los Angeles, che è il locale sul quale ci focalizziamo in questa prima parte della trasmissione. È stato registrato, dicevo, il 21 giugno del 1979. E continuiamo con questa rassegna di super mega stars che hanno suonato al Forum di Los Angeles, all'Inglewood Forum di Los Angeles. Se Fleetwood Mac hanno venduto milioni di copie, gli Eagles non sono da meno, anzi direi che è una bella lotta fra le due. Entrambi sono partiti in un modo, come vi dicevo, Fleetwood Mac in modo blues, gli Eagles in modo country rock, poi entrambi si sono avvicinati invece alla musica un po' più rock pop, che gli ha dato più soddisfazioni economiche sicuramente. Qui abbiamo il super classico degli Eagles, si chiama Hotel California, è stato pubblicato originariamente nel dicembre del 1976 e ha venduto 32 milioni di copie, scusate se è poco. È stato ripubblicato poi nel 2017 in versione 2 CD, il secondo dei quali comprende un concerto proprio registrato al Forum di Los Angeles nell'ottobre del 1976. Andiamo ad ascoltarci questo brano, gli Eagles, si chiama Already Gone. Already gone, and I'm feeling. when you break up. Il primo album live di Tom Petty and the Heartbreakers si chiama Pack Up the Plantation, è stato registrato in diverse occasioni e naturalmente in diverse epoche. Questo Insider che ci siamo ascoltati è stato registrato al Forum di Los Angeles nel giugno del 1981 e assolutamente casuale la cosa, la voce femminile che avete sentito è quella di Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, che ha fatto diversi duetti appunto con Tom Petty nel corso della propria carriera, tutti di grande successo, e ogni tanto appunto raggiungeva l'amico in concerto, come è successo in questo caso con questo brano che si chiama Insider. Andiamo a concludere questa piccola rassegna di brani registrati al Forum, ce ne sarebbero ancora tanti, ho lasciato fuori, scusate se poco, Sua Maestà Bob Dylan e gli altri re che si chiamano Crosby, Stills, Nash & Young, The Hurt, e voglio però concludere con questa band che non è molto conosciuta in Italia, ma è una delle top in assoluto nel campo della musica funk. Lui si chiama George Clinton, è un agitatore di popoli a dire il vero, ma ha formato diverse bands, fra cui questi Parliament, che sono attivi dal 1968 e hanno cessato l'attività, anche se visto che hanno già avuto diverse interruzioni nel corso della loro carriera, dicevano cessato l'attività nel 2018, ma staremo a vedere quello che succederà prossimamente, anche perché durante i vari break dei Parliament c'è George Clinton aveva un'altra band che si chiama P-Funk e ha fatto altre cose sempre nell'ambito di questo genere musicale. L'album è stato naturalmente registrato al Forum e si chiama P-Funk Earth Tour, che è stato registrato nel 1977. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama The Undisco Kid, The Girl Is Bad. Loro sono Parliament, ultima cosa dal Forum di Los Angeles. Was kicked back lying in the cut, eat some fish and chips. Then this freaky little groupie from the funky side of town began to give him some lip. She was damned about how bad she could do the funk. The kid said, on the real side of things, Bertha, you got too much rum in the funk. Ooh, you're sexy body. Baby, let me see you moving all across the floor. Glide, you're a sexy body. Every time she wiggles, you make the men holler for more. Stay! I'm on the 10 most wanted list. I got a deadly groove, she said. My face is on every wanted poster in town for the way I move. A public enemy number one to the undisco scene. If y'all don't get off your hiney tonight, I'ma get me. Ooh, you're sexy body. Now the kid was cool, he was no fool. He said, get the funk off my cage. Without missing a beat, he snatched it to his feet and bumped it in his face. Yeah. She turned that sucker on. She screamed, she shouted. She turned that sucker on. She screamed, she shouted. She turned that sucker on. Body. Baby, let me see you move it all across the crowd. Oh, yeah, like nobody. Nobody. Every time she wiggle, she make a kid out of my mouth. Oh. Ooh, your sexy body. She wake up, she make me get out of my mouth. Don't ask me what I think of you. Might not give the answer that you want me to. Thank you. talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. Might not give the answer that you want me to. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, 6 dicembre 2023, ci avviciniamo a rotta di collo, come si suol dire, alla fine dell'anno, e vi ricordo ancora che siamo nel pieno della campagna abbonamenti, per cui mi raccomando, fateci un bel pensierino e agite, agite. E abbiamo iniziato come sempre con la seconda parte, con la novità che vi propongo quest'oggi. È una novità sempre, per modo di dire, perché è una registrazione del 1977 da parte dei Fleetwood Mac, Rumors Live si chiama il doppio album. Fleetwood Mac, come vi dicevo in precedenza, ha avuto praticamente due vite, quella britannica tutta blues e quella americana molto pop, ma sempre molto piacevole, e questo che ci siamo ascoltati è l'unica reminiscenza blues del primo periodo che i Fleetwood Mac sono sempre portati dietro nel corso della loro carriera, anche nella seconda parte, quella americana. Si chiama How Well, è un brano che è stato scritto da Peter Green, il leader della prima formazione, e che appunto è l'unica cosa rimasta nel repertorio dei Fleetwood Mac americani, di quelli britannici. Come sempre arriva adesso Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime cose, più ci avviciniamo a Natale chiaramente, alla fine dell'anno, e più ce ne sono, e quindi il criterio di scelta comunque è sempre quello, un brano per ogni decade. E andiamo ad iniziare subito con una band, siamo nel 1968, una band che diciamo rivaleggiava ampiamente con i primi Fleetwood Mac, quelli blues. Infatti è una band inglese, scusate, blues, che è rock blues per meglio dire, che si chiamava Savoy Brown. Sono stati fantastici, una grande band, anche se totalmente sconosciuta direi, e sono stati attivi dal 1965 al 2022, l'anno della morte di Keith Simmons, che è stato il membro fondatore e l'unico membro sempre nella formazione di questi Savoy Brown. Blue Matter è un vinile, quello che ci andiamo ad ascoltare, ha una facciata in studio e una facciata registrata dal vivo al College of Education di Leicester in Gran Bretagna, appunto il 6 dicembre del 1968. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama May Be Wrong. Thank you. come avete potuto tranquillamente vincere dal fruscio di fondo tipo friggitoria e da qualche ciocco estemporaneo, ciocco è una parola bolognese che intende un rumore secco, ma questo era un vinile d'epoca, comprato all'epoca con i miei sudatissimi risparmi. E Savoy Brown, la band che ci siamo ascoltati, l'album si chiama Blue Matter, come vi dicevo, una parte in studio e una parte dal vivo, registrata il 6 dicembre del 1968. Il brano si chiama May Be Wrong. Se ormai Savoy Brown sono persi per strada, cioè persi per causa di forza maggiore, a dire il vero, Elton John invece gliel'ha data su, pare, di sua spontanea volontà, anche se il suo farewell tour ormai dura da tempo immemore. Elton John, non vi starò a spiegare naturalmente chi è, lo sapete meglio di me, vi ricordo solamente che la cosa che ci andiamo ad ascoltare è un suo brano che si chiama The Beach Is Back ed è tratto da un album, un CD della serie King Biscuit Flower Hour, che era una trasmissione radiofonica americana che veniva trasmessa da più di 200 radio la domenica sera e che è stata attiva dal 1973 al 1993, fino al 2005 concerti inediti registrati appositamente per la trasmissione, dopodiché dal 2005 in poi fino alla fine, fino alla fine e anche adesso magari ogni tanto vanno in onda delle repliche di quei concerti che sono sempre meno meriti. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto dal quarto volume della serie The Best of King Biscuit Flower Hour, poi sarebbero usciti anche dei volumi monografici artista per artista, sempre troppo pochi comunque, è il quarto ed è stato registrato in quel di Londra, la Wembley Arena di Londra, esattamente nel 1970, anzi scusate, l'Hammersmithodium di Londra, durante una serie di concerti, di 5-6 concerti consecutivi in quel locale storico della capitale britannica. Siamo nel 1974, 6 dicembre naturalmente, Elton John, The Beach Is Back. Elton John, quindi The Beach Is Back, 6 dicembre 1974, Hammersmith Odeon di Londra, uno dei classici nella produzione di questo mega, di questa mega star. Molto velocemente, 1987, due anni dopo lo scioglimento dei Bauhaus, scioglimento che decretò la nascita di questi Lovin' Rockets che ci andiamo ad ascoltare, cioè i tre musicisti dei Bauhaus che se ne andarono, si divisero dal cantante Peter Murphy e fondarono appunto Lovin' Rockets. Sono attivi tuttora, anche loro con diverse interruzioni dovute alle varie riunioni dei Bauhaus. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a Los Angeles, Irvine Brand Center, il 6 dicembre del 1987 appunto, e si chiama Seven Dream of Teenage Heaven. We'll be right back.

questo era il brano di apertura del concerto del 6 dicembre del 1996, con il quale aprirono appunto il concerto, scusate la ripetizione, i Fish in quel dell'Aladdin Theater di Las Vegas. Questo triplo album, non vi starò a dire che è bellissimo perché sarebbe troppo di parte, si chiama Vegas 96 ed è appunto aperto da questa Wilson, disco album a concerto molto interessante, anche perché a un certo punto verso la fine, visto che siamo a Las Vegas, arrivano ben tre sosia di Elvis Presley a fare alcuni brani di quello che veniva chiamato il King of Rock and Roll. Arriviamo agli anni 2000 con una band che però ha avuto più successo sul finire degli anni precedenti, del secolo precedente per meglio dire. Arrivano perché sono ancora vivi e vegeti, anche se la formazione è radicalmente mutata, come sempre, anche perché, come vi dicevo, arrivano dal 1972. Sono diventati famosi per i loro show fantasmagorici, truculenti, un po' Gran Guignol, insomma tante cose. E si chiamano Tubes, hanno fatto alcuni album live, tre ufficiali e alcuni abbastanza borderline. Di questi tre ufficiali, due sono registrati a Londra, fra cui questo che ci andiamo ad ascoltare adesso, che si chiama appunto Wild in London. Era il 6 dicembre del 2004, scusate. E naturalmente non ci si può esimere dall'ascoltare questo che è uno dei loro grandi classici, si chiama White Punks on Dope, Shepherd's Bush Empire di Londra, era il 6 dicembre del 2004. Certainly owe so. Erano Tubes dal 2004, 6 dicembre in quel di Londra, White Punks on Dope. Molto velocemente, perché dovrò purtroppo tagliare il pezzo seguente, sono stato un po' troppo prolisso nelle mie parole, me ne scuso. Vi ricordo solamente che questa era Città Fujiko Live Club, ogni mercoledì un paio di ore di musica live dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, più naturalmente il web. Vi do appuntamento mercoledì prossimo, vi lascio con l'ultima cosa di Ricordi Today di oggi, una band olandese, due fratelli più un amico, la band si chiama The Wolf, Live and Out of Sight, il secondo della serie Live and Out of Sight, il numero 2, è stato registrato a Groningen all'M2 e nel 2018, naturalmente il 6 dicembre. Il brano che ci ascolteremo per qualche secondo si chiama Share the Ride, loro si chiamano The Wolf. Ciao a tutti da Nevio. It's all for you all.